Da qualche istante, al desiderio di persuadere Charlieu che non avevo mai detto né inteso dire niente di male sul suo conto, era succeduta una folle rabbia, provocata da quelle parole dettategli unicamente, così pensavo, dal suo smisurato orgoglio. Di tale orgoglio, del resto, erano forse almeno in parte l'effetto. Quasi tutto il resto veniva da un sentimento che ancora ignoravo e che non fu dunque colpevole, da parte mia, non tenere nel debito conto. In mancanza dell'ignoto sentimento, avrei potuto almeno, se mi fossi ricordato delle parole di Madame de Guermantes, mescolare all'orgoglio un pizzico di follia. Ma in quell'attimo l'idea della follia non mi passò nemmeno per la testa. A mio avviso in lui c'era solo orgoglio e in me solo furore, il quale, nel momento in cui Charlieu smetteva di urlare per parlarmi dei suoi augusti alluci, con una maestosità accompagnata da una smorfia, un vomito di disgusto all'indirizzo dei suoi oscuri bestemmiatori, il quale furore non si contenne più. Un impulso irrefrenabile mi spingeva a spaccare qualcosa e poiché un residuo di discernimento mi induceva a rispettare un uomo tanto più anziano di me e anche, considerata la loro dignità artistica, le porcellane tedesche posate intorno a lui, mi avventai sul cappello a cilindro nuovo di zecca del barone, lo buttai per terra, lo calpestai, m'accanì a sfasciarlo interamente, strappai la fodera, lacerai in due la corona senza dare ascolto alle voci ciferazioni ininterrotte del signor di Charlieu e, attraversata la stanza, spalancai la porta per andarmene. Su entrambi i lati di essa erano appostate, con mia grande stupefazione, due lacchè, che si scostarono lentamente come se si fossero trovati a passare di lì per qualche loro incombenza. Ne appresi in seguito i nomi. Si chiamavano uno Bournier e l'altro Charmel. Non accettai neppure per un istante la spiegazione che il loro contegno disinvolto sembrava propormi. Era inverosimile. Altre tre mi parve lo fossero un po' meno. La prima, che il barone ricevesse a volte degli ospiti contro i quali poteva aver bisogno d'aiuto. Ma perché? E ritenesse perciò necessario avere un nucleo di pronto intervento nelle vicinanze. La seconda, che i due domestici, attratti dalla curiosità, si fossero messi a origliare, non prevedendo che sarei uscito così presto. La terza, che lo stesso Charlieu, avendo preparato e recitato tutta la scena che mi aveva appena fatta, avesse chiesto loro di ascoltare, per amore di spettacolo, unito forse a un nunc erudimini, da cui ciascuno avrebbe tratto un suo profitto. Se la mia collera non aveva placato quella del barone, la mia uscita dalla camera parve procurargli un fiero dolore. Mi chiamò, mi fece chiamare e alla fine, dimenticando che un istante prima, con quel discorso sugli augusti alluci, aveva creduto di farmi testimone della sua propria deificazione, corse a gambe levate sino nel vestibolo, dove mi raggiunse e mi sbarrò il passaggio. «Andiamo!» mi disse. «Non fate il bambino, tornate dentro un minuto. Chi molto ama, molto punisce, e se vi ho inflitto un duro castigo è perché vi voglio davvero bene». La mia collera era svanita. Sorvolai sulla parola «castigo» e seguì il barone che, chiamato un lacchè, gli fece portar via, senza il minimo amor proprio, i frantumi del cappello distrutto che fu sostituito con un altro. «Se non vi dispiace dirmi, signore, chi mi ha perfidamente calunniato?» dichiarai al signor di Charlieu. «Sono qui per saperlo e per confondere l'impostore». «Chi? Non lo sapete? Non serbate il ricordo di ciò che dite? Pensate che chi mi rende il servigio d'avvertirmi di queste cose non mi chieda in cambio il segreto? E mi credete disposto a tradirlo dopo essermi impegnato? Vi è dunque impossibile, signore, rivelarmelo?» chiesi mentre cercavo un'ultima volta nella mia testa, dove non trovai nessuno, a chi mai avessi potuto parlare del signor di Charlieu. «Siete sordo? Vi ho detto che ho promesso il segreto al mio informatore. mi rispose con voce sferzante. «Vedo che al gusto dei discorsi abietti aggiungete quello delle insistenze vane. Dovreste almeno avere l'intelligenza di approfittare di un ultimo incontro e parlare per dire qualcosa che non sia un assoluto nulla». «Signore», mi difesi allontanandomi, «voi mi insultate. Io sono inerme perché voi avete parecchie volte i miei anni. La partita non può essere equilibrata. D'altra parte non riesco a convincervi. Vi ho già giurato che non ho detto niente». «Dunque, io mentirei?» esclamò in tono terrificante e facendo un tale balzo che si trovò in piedi a due passi da me. «Siete stato ingannato!» Allora, con una voce dolce, affettuosa, malinconica, come in quelle sinfonie che vengono eseguite senza soluzione di continuità fra i diversi tempi, così che un grazioso scherzo idilliaco e gentile subentra ai colpi di fulmine del primo brano, «è possibilissimo», mi disse. «In linea di massima, un discorso riferito è raramente vero, è colpa vostra se, non approfittando delle occasioni di vedermi che vi avevo offerte, non mi avete fornito con quelle parole aperte, quotidiane, che creano la fiducia, l'unico rimedio preventivo e sovrano contro altre parole che vi dipingevano come un traditore. In ogni caso, vero o falso che fosse, quel discorso ha compiuto la sua opera. Non posso più liberarmi dall'impressione che m'ha prodotto. Non posso nemmeno dire che chi molto ama molto punisce, perché vi ho sì castigato, ma non vi amo più». Dicendo queste parole, mi aveva costretto a risedermi e aveva suonato. Entrò un nuovo lacchè. «Portate da bere, andate a dire che attacchino i cavalli al coupé». Obiettai che non avevo sete, che era molto tardi e che d'altronde avevo già una vettura. «È probabile che l'abbiano pagata e mandata via», mi disse. «Non state a preoccuparvene, faccio attaccare perché vi riaccompagnino, a meno che, se temete che sia troppo tardi, avrei anche potuto darvi una camera qui». Osservai che mia madre si sarebbe allarmata. «Ah, sì, vero o falso, il discorso ha compiuto la sua opera. La mia simpatia prematura era fiorita troppo presto. E come quei meli di cui discorrevate così poeticamente a Balbec, non ha resistito alla prima gelata». Se la simpatia di Charlieu non fosse stata distrutta, non so in quale altro modo si sarebbe potuto comportare, visto che, continuando a parlare della nostra rottura, mi tratteneva, mi offriva da bere, mi chiedeva di restare a dormire e ordinava che m'accompagnassero a casa. Dava persino l'impressione di temere il momento in cui mi avrebbe lasciato e sarebbe rimasto solo, quella specie di paura un po' ansiosa che mi era parso provasse la sua cognata e cugina Guermantes quando, un'ora prima, mi aveva costretto a restare ancora un poco, con la stessa infatuazione passeggera per me, lo stesso sforzo di prolungare la durata di un istante. «Disgraziatamente», riprese il barone, «non ho il dono di far rifiorire ciò che è stato distrutto. La mia simpatia nei vostri confronti è morta per sempre. Niente può resuscitarla. Credo non sia indegno di me confessare che me ne rammarico. Mi sento sempre un po' come il bus di Victor Hugo. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe». Riattraversai con lui il grande salotto verdastro. Gli dissi incidentalmente quanto lo trovassi bello. «Già, bello, vero?» mi rispose. «Bisogna pure amare qualcosa. Le boiserie sono di Bagard. La cosa più fine, vedete, è che siano state fatte apposta per le sedie di Beauvais e per le console. Osservate, riprendono il loro stesso motivo ornamentale. Non c'erano più che due palazzi con qualcosa di simile, il Louvre e la casa del signor di Nisdal. Ma naturalmente, appena ho deciso di venire ad abitare in questa via, è saltato fuori un vecchio palazzo scimè di cui nessuno si era mai accorto, perché era qui solo per me. Sì, va abbastanza bene, potrebbe essere meglio, forse, ma non è affatto male. C'è qualche bella cosa, i ritratti dei miei zii, il re di Polonia, il re d'Inghilterra, dipinti da Mignard. Ma che sto dicendo? Lo sapete meglio di me, visto che avete aspettato in questo salotto, no? Ah, vi avranno sistemato nel salotto azzurro. Aggiunse in tono vuoi di impertinenza per la mia mancanza di curiosità, vuoi di superiorità personale per non aver chiesto dove mi avessero fatto aspettare. Ecco, in quel ripostiglio ci sono tutti i cappelli portati da Madame Elisabeth, dalla principessa di Lamballe e dalla regina. Niente, non vi interessa, sembra che non vediate. Forse soffrite di un'affezione al nervo ottico. Se vi piace di più questo genere di bellezza, ecco un arcobaleno di Turner che comincia a brillare fra quei due Rembrandt, come segno della nostra riconciliazione. Ascoltate, si sta aggiungendo anche Beethoven. E in effetti si distinguevano i primi accordi del terzo tempo della Sinfonia Pastorale. La gioia dopo la tempesta, eseguiti non lontano da noi, probabilmente al primo piano, da alcuni strumentisti. Ingenuamente chiesi per quale combinazione venisse suonato quel pezzo e chi fossero gli esecutori. Non si sa, nessuno lo sa, sono musiche invisibili, grazioso, non è vero? Aggiunse in tono appena impertinente e che, tuttavia, richiamava in qualche misura l'influsso e l'accento di Swan. «Ma voi ve ne infischiate come un pesce ed una mela. Volete tornare a casa a costo di mancare di rispetto a Beethoven e a me. Siete voi stesso a giudicarvi e a condannarvi», concluse in tono tristemente affettuoso quando venne il momento del commiato. «Mi perdonerete se non vi accompagno come imporrebbero le buone maniere», mi disse. «Risoluto come sono a non rivedervi mai più. Poco mi importa di passare altri 5 minuti in vostra compagnia e poi sono stanco e ho molto da fare». Non di meno, notando che il tempo era bello, «Ma sì, salirò anch'io in carrozza. C'è un chiaro di luna superbo, andrò a guardarlo al Bois dopo avervi riaccompagnato. Come?» «Non sapete radervi». Nemmeno quando siete invitato una sera a pranzo riuscite a togliervi tutti i peli, osservò stringendomi il mento fra due dita, per così dire magnetizzate, che dopo aver resistito per un istante risalirono fino alle mie orecchie come le dita d'un parrucchiere. Ah, sarebbe piacevole contemplare questo chiaro di luna azzurro al Bois assieme a una persona come voi. Disse con dolcezza improvvisa e quasi involontaria, poi malinconico, perché, nonostante tutto, siete simpatico. Potreste esserlo come nessun altro, aggiunse toccandomi paternamente la spalla. Una volta confesso che vi trovavo proprio insignificante. Avrei dovuto supporre che mi trovasse ancora tale. Bastava ricordare la rabbia con cui mi aveva parlato non più di mezz'ora prima. Eppure avevo l'impressione che fosse, in quel momento, sincero, che il suo buon cuore prevalesse su quello che ritenevo uno stato quasi delirante di suscettibilità ed orgoglio. La carrozza era già davanti a noi e Charlieu prolungava la conversazione. «Coraggio!» disse bruscamente. «Salite!» Fra 5 minuti saremo a casa vostra e vi augurerò buonanotte tagliando corto e per sempre i nostri rapporti. Dal momento che dobbiamo lasciarci definitivamente, tanto vale che lo facciamo come in musica, su un accordo perfetto. Malgrado queste solenni dichiarazioni che non ci saremmo mai più rivisti, avrei giurato che a Charlieu, seccato d'essersi prima lasciato andare in quel modo e timoroso d'avermi rattristato, non sarebbe affatto dispiaciuto rivedermi ancora una volta. Non mi sbagliavo. Subito dopo, infatti, «Ecco che stavo dimenticando», esclamò, «la cosa principale. In memoria della vostra signora nonna avevo fatto rilegare per voi una curiosa edizione di Madame de Sévigné. Siamo dunque costretti a un nuovo incontro. Possiamo consolarci pensando che raramente una faccenda complicata si sbriga in un solo giorno. Guardate quanto tempo è durato il congresso di Vienna. Ma potrei mandarla a prendere senza recarvi disturbo, dissi cortesemente. Volete star zitto, piccolo idiota? Replicò erosamente il barone. Non siate così grottesco da considerare come una cosa da nulla l'onore d'essere probabilmente, non dico sicuramente perché forse sarà un cameriere a portarvi volumi, ammesso alla mia presenza? Si riprese. Non voglio lasciarvi con queste parole, niente dissonanze. Prima del silenzio eterno, accordo di dominante. Sembrava che tornare a casa subito dopo un'aspra rottura verbale lo preoccupasse per i suoi nervi. «Non volete venire fino al Bois?» mi disse in tono non già interrogativo ma affermativo e da quel che mi parve non tanto perché non volesse propormelo quanto per non esporre il suo amor proprio al rischio di un rifiuto. «Ebbene», continuò attardandosi ancora, «ecco il momento in cui, come dice Whistler, i borghesi se ne tornano a casa. Forse voleva ricattare il mio amor proprio. Le conviene cominciare a guardare, ma voi non sapete neanche chi sia Whistler.